Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento di questa settimana insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, la seconda solo di venerdì mattina, perché ieri era festa, doppia festa di San Marco e festa della Liberazione. Salutiamo il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Parliamo oggi di rifiuti, rifiuti speciali, quelli che di solito vanno trattati e smaltiti anche dai privati in modo particolare. Rifiuti elettrici ed elettronici, anche qui può essere un segno della crisi, stanno diminuendo. Sì, come hai detto te, Mirko, da quello che è il rapporto che si è letto nel 2012 su... dalla RAI, che sappiamo che è un ente che raccoglie i rifiuti elettrici e elettronici di ogni tipo, scopriamo che proprio per valorizzare quello che è il dato sulla crisi che stiamo attraversando in Italia, ma anche un po' nel resto dell'Europa e anche del mondo, se vogliamo dire, comunque tornando all'Italia, per la prima volta anche i rifiuti elettrici stanno diminuendo, segno inequivocabile, come hai detto tu, della crisi e di come le persone tendono ad acquistare meno ma a conservare di più quelli che sono un po' i nostri elettrodomestici. Ecco, parliamo infatti di quel tipo di prodotti, no? I televisori, i computer, elettrodomestici grandi e piccoli, credo, oltre che magari anche le lampadine, ci sono anche quelle dentro, giusto? Nella classifica dei 5 raggruppamenti in cui vengono divisi i RAE, al primo posto per volumi troviamo la televisione e i monitor con 76.500 tonnellate, che comunque, anche se è un dato significativo, è meno il 9,22% rispetto al 2011. Poi abbiamo i frigoriferi, le apparecchiature refrigeranti, e anche qui abbiamo un meno 6,62, e alla fine i grandi elettrodomestici, che comunque anche questi sono in crisi, fino ad arrivare ai piccoli elettrodomestici e alle lampade e lampadine, come hai detto tu. Sempre le lampade e lampadine, il dato comunque sorprendente, perché sappiamo che la nuova normativa prevede l'obbligo delle nuove lampadine a risparmio energetico, quindi teoricamente la sostituzione delle vecchie, è bensì vero che quello che era un settore come la tecnologia, oggi analizzare questi dati veramente ci rendiamo conto come le persone stanno cercando di risparmiare su tutto, e anche sui elettrodomestici si cerca di conservare quelli che si ha, cercando di rinviare l'ultimo apparecchio oppure anche di far funzionare in qualunque modo anche quelli che insomma ad oggi magari ancora non sono proprio perfettamente efficaci. Ecco, diciamo che un frigorifero dovrebbe avere una vita lunga, credo almeno 20 anni, forse 30, quelli che escono dalle fabbriche, sbaglio? Qui sul frigorifero noi abbiamo sempre un po' denunciato anche come sostanzialmente non è certamente la parte elettrica o elettronica che ti induce a cambiarlo, ma sostanzialmente il fatto che si esaurisce il gas. Però è anche vero che sugli elettrodomestici ci sono sempre dei grandi business, perché normalmente purtroppo ancora oggi scopriamo che i prodotti che non sono in classe A, A+, eccetera eccetera, che sono quelli che ti permettono di risparmiare, costano molto di più rispetto a quelli che non sono in classe A, che teoricamente dovrebbe avere un ragionamento opposto a quello che è una politica di mercato, perché se da un lato si incentiva a salvaguardare l'ambiente e a spendere meno, dall'altra però costano di più. Credo che chiunque abbia comprato una lampadina a risparmio energetico rispetto a una lampadina tradizionale, è vero che dura molto di più, ma se una lampadina costava 40-50 centesimi, una lampada a risparmio energetico ti arriva a costare anche 5-6 euro. Quindi quella che è un po' una filosofia orientata alla salvaguardia dell'ambiente e al risparmio certamente non è sviluppata nella maniera giusta. Però, permettendo questo e pensando anche a quelli che sono i processi evolutivi che hanno le televisioni o quelli che hanno i cellulari, certamente leggere questo dato qua vuol dire che non c'è una rincorsa a cambiare il prodotto e dover comprare quello che è l'ultimo grido. Fermo restando che qualcosa è successo un paio d'anni fa, quando c'è stato l'obbligo di comprare i decoder, che molti hanno dovuto per forza di cose sostituire la vecchia televisione. Eh sì, beh, quello fu un anno, 3 anni fa ormai, giusto? 2009 mi pare, o 2009-2010, fu un anno davvero di grandi rifiuti e di grandi cambiamenti. Probabilmente adesso, prima che uno cambi il televisore, davvero insomma ci deve pensare, perché la tecnologia attualmente rimane quella, senza aprire, ma lo apriamo un'altra volta, insomma, il capitolo sui problemi del digitale terrestre, perché è una questione ancora aperta, purtroppo. Per quanto riguarda la distribuzione tra nord e sud Italia, centro Italia, insomma, di solito sappiamo ci sono delle differenze per quanto riguarda la virtuosità della raccolta anche di questo tipo di rifiuti. Che dati ci sono? Purtroppo anche qui, quando dobbiamo commentare dati sui rifiuti, scopriamo sempre come il nord sostanzialmente è molto più virtuoso rispetto al sud, in particolar modo la Val d'Aosta da una parte è la più virtuosa, la Sardegna quella meno virtuosa. Anche qui chiaramente non vorrei aprire una polemica su quelle che sono le discariche abusive o quelli che ci sono o quelli che sono un po' tutti i business legati alle discariche, però certamente i dati sono veramente così diversi che un pensiero per forza è obbligatorio rivolgerlo. Ma a parte questo, come detto, dobbiamo sapere che sul recupero delle apparecchiature elettroniche normalmente c'è anche un grande interesse economico, addirittura ci sono delle aziende che si sono organizzate perché dalle schede si recupera l'oro, si recupera il rame. Oggi il rame è diventato una delle materie più ricercate anche dai contrabbandieri, il rame nell'elettronica viene venduto quasi a peso d'oro e anche nell'edilizia, mentre per quanto riguarda l'oro, proprio poco tempo fa avevo letto come ci sono delle apparecchiature, dei macchinari, delle aziende che addirittura arrivano a recuperare l'oro da quelli che sono dei circuiti che vengono utilizzati su delle schede. Ma fermo restando che noi come associazione, al di là di quelli che sono gli orientamenti che vogliamo dare, cioè dire che il consumatore è obbligatorio sempre quando si acquista un'apparecchiatura portarla in discarica e che il venditore ha l'obbligo di ritirare l'apparecchiatura vecchia, è anche vero che comunque il fenomeno della crisi, certamente il fatto che venne colpita anche l'elettronica, penso che sia uno degli aspetti più significativi dopo quello insomma della casa e dell'automobile che insomma comunemente usiamo tutti i giorni per andare a lavorare. Eh sì, anche questo è un segno dei tempi. Allora, con questi dati noi ci fermiamo, ci diamo appuntamento la settimana prossima con altri due argomenti. Grazie all'Adico, al presidente Carlo Garofolini, buona giornata. Grazie a te Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.